18. Il 1848. Fin dagli ultimi mesi dell'anno 1847, l'orizzonte d'Italia prendeva un aspetto minaccioso che presagiva imminente ed inevitabile una crisi. Le genti della nostra penisola si trovavano assorte in un'aspettazione poco diversa da quella dei millenari. Pareva un secolo ogni giorno che passava. La sera subentrava lo sconforto, ad ogni nuovo sole che spuntava, le speranze rinascevano. Benché dal mondo dei vivi segregata, pure io mi informava di tutto dai parenti ed il menomo sintomo di mutazione, il menomo movimento popolare mi faceva balzare il cuore. I conventi di Napoli sono stati in ogni tempo e sono tuttavia i più accaniti propugnatori del dispotismo. Sì, per insinuazione dei superiori che per impulso spontaneo le monache di San Gregorio solevano fare delle preci per il re di allora, preci in cui fra le altre si domandava a Dio lo sterminio dei malvagi, vale a dire dei liberali. Con qual profondo senso di riprovazione era io costretta ad assistervi? Contro tali preghiere lo spirito mio protestava col più energico disprezzo e innalzava taciti voti all'Onnipossente per la caduta della tirannide e per il trionfo della nazione alla quale io mi gloriava di appartenere. Non sfuggì alle suore la diversità del mio contegno, laonde misero in voce essere io rivoluzionaria, aggregata a segrete società, settaria, eretica e che so io. Talché, per colpa mia, trovavasi il monastero sull'orlo del precipizio. Non diedi retta alle loro lamentazioni e deplorai la crassa ignoranza in che vivevano. Anzi, dal dì che Ferdinando II giurò la Costituzione e proclamata fu la libertà di stampa, comprai francamente i giornali dell'opposizione e li lessi ad alta voce sotto le volte del cenobio, da tanti secoli sorde agli accenti della libertà. Al clamoroso risvegliarsi dei popoli, al tremendo ruggito delle rivoluzioni, allo strepito delle barricate, al crollo dei troni che tanto contrastava col sepolcrale silenzio del mio carcere, io provavo una soddisfazione, uno strano contento che mi rapiva. E qual piacere, andava dicendo fra me, se l'eco imbelle e misantropo di questi luoghi fosse orora atterrito dallo squillo di una tromba militare che si inoltrasse fino alla sala del Capitolo. Intanto, alimentato quotidianamente dai diari, il mio entusiasmo cresceva a mano che mi era dato vedere i preti frementi di fanatismo e di rabbia. La faccia di questi negromanti mi serviva di telegrafo. Si spandeva un giallume itterico sulle loro contratte fattezze. Le cose andavano egregiamente. Tornavano essi a sollevar lo sguardo umiliato, a sogghignare, a esplodere imprecazioni contro la Costituzione che chiamavano prostituzione. Il vento spirava contrario. A poco fu ordinata nel convento una congiura volta a mortificare il mio liberalismo e a trafiggere le mie convinzioni. Era il tempo in cui le insegne napoletane, per amore o per forza benedette dalle locali autorità, partivano alla volta della Lombardia a fine di cooperare, si diceva, nell'espulsione finale dell'austriaco. Qual nugolo di sarcasmi, di velenosi motteggi, di pungenti frizzi, di ironie, non m'assalì allora nel refettorio per tutto il tempo della mensa. Spesso lasciai il desinare alla zuppa e, rientrata furente nella mia cella, fui invasa dall'orrenda tentazione d'appiccare il fuoco al monastero, a costo di mandare in cenere quelle vespe e quei calabroni, e insieme con loro me stessa. Una volta, sdraiatami sul materasso, col povero cibo inacidito nelle mie viscere, ma con l'animo risoluto alla resistenza, chiamai da presso la fedele conversa e, presala per mano, con gli occhi pregni di lacrime, l'interrogai così: «Tu dici, Maria Giuseppa, di non volerti mai separar da me. Sei ben risoluta in ciò che dici?» «Ah, signorina, e ne dubitate!» «Se dunque ami tanto me, non puoi chiamare nel pari tempo tutti coloro che mi sono amici e detestare gli altri che mi sono nemici. Questo già lo sapete per esperienza. Ora, se ti dicessi che fuori di questo recinto ho molti amici e tanti quanti sono gli abitatori del nostro bel paese che sospirano per l'uguaglianza e per la libertà, che sentiresti tu per loro? Li amerai per certo, sì perché li amate voi, sì perché chiedono l'uguaglianza e la libertà. Brava Giuseppa, soggiunsi, dandole alla mano una stretta più forte e libero, lasciando allora lo sfogo ai sentimenti che m'agitavano il petto. Se dunque, deposte coteste insegne dell'egoismo e dell'inerzia e indossate quelle di vivandiera di reggimento, io ti dicessi: seguimi Giuseppa, in Lombardia o nella Venezia, là dove pugnano i forti per la libertà dei deboli, dove siamo chiamate pur noi dal dovere di madri, di sorelle, di cittadine, anzi che marcire nel servizio di queste nemiche di ogni bene altrui. Non preferiresti di far da infermiera, da farmacista, da panettiera ai prodi che vanno a immolarsi per il miglioramento di tutti? Oh, vi seguirei di tutto cuore, vi seguirei sull'istante, rispose Maria Giuseppa con trasporto, asciugandosi col grembiule le lacrime che già le bagnavano le gote. La tirai per il braccio, me la strinsi al seno e le diedi un bacio. In quell'amplesso, in quell'effusione di affetti, in quel bacio di concordia, la figlia del popolano e la figlia del Signore formarono una sola persona. Mentre un giorno avveniva per le pubbliche vie uno di quegli irragionevoli allarmi che in tempi di politici sconvolgimenti conturbano troppo di frequente la città di Napoli, io e altre due monache, curiose di sapere il motivo per cui le porte e le finestre del vicinato si serravano con fracasso, ratte salimmo al campanile, dalla cui sommità si scorgono tutti i quartieri circonvicini. Tutta la gente correva a precipizio, tre soli giovanetti se ne andavano pacatamente. Ci guardarono attraverso le inferriate, uno d'essi sorridendo: «Allegramente, monachelle», disse, «fra poco finiranno pur le vostre pene». La compiacenza mi rifulse in volto. Una delle monache, avvedutasene: «Tu ridi», mi disse, «è cosa da piangere piuttosto». «Oh, piangi tu che ci perdi», risposi, «io che ci guadagno ne rido». La badessa, risaputo ciò che avevamo fatto, chiuse il campanile a chiave. Se non che, in altri luoghi del monastero restavano pur altre finestrine donde io poteva esplorar di soppiatto ciò che nel mondo di fuori si facesse. E già sapeva che la Costituzione, dal re accordata, non prometteva in materia di religione veruna riforma. Egli, barbogio e sanfedista, egli, caparbio e ipocrita, né libertà di culto aveva conceduta, né alcuna cosa ond'io potessi sperare di vedere prossimamente soppresse quelle bolge d'inferno, obbrobrio del nostro secolo che si chiamano chiostri. Un'ancora di speranza era tuttavia per me il sol grido di «Viva Pio IX!» che spesso all'orecchio mi risuonava. Un papa che di primo tratto era si dichiarato in faccia al mondo l'amico supremo della libertà, poteva egli mantenersi nell'ammirazione del mondo cristiano senza concedere in fatto d'ecclesiastica disciplina qualche riforma tanto rispondente ai bisogni del tempo quanto pure a lui suggerita dalle sue proprie convinzioni? Incoraggiata da tali riflessioni, presi a scrivere una seconda istanza da essere consegnata in mano propria al sommo pontefice. Deposto però il tono supplichevole, feci uso questa volta di concetti robusti quali convenivano ai tempi. Dissi dunque schiettamente lo stato monastico non essere che un residuo di barbarismo orientale, il monastero non altro che prigione per coloro che non vi erano entrati di buon animo. Non avendo io commesso alcun delitto né contro Dio né contro il prossimo, non sapere per qual legge inumana dovessi languire e morir poi disperata in un carcere. Sperare tutta volta di trovare ascolto nella misericordia di un pontefice il quale all'Italia, alla cristianità promessa, aveva un'era novella di riordinamento. Conchiudeva che se si volesse persistere a negarmi l'impetrata giustizia, io, intrepida davanti a qualsiasi rischio, avrei finalmente usato della libera stampa e di più lingue per notificare al mondo intero l'enormità del mio sacrificio. Non era il Papa avverso alla mia uscita. La Sacra Congregazione dei Vescovi Regolari, dalla quale tali pratiche dipendevano, elargiva facilmente congedi alle suore ogni qualvolta un medico ne assicurasse la necessità. Non aveva dunque la Santa Sede verun motivo particolare di rigettare la mia domanda, ma l'intoppo esisteva in Napoli, poiché nella verifica dell'esposto la regola richiedeva il voto dell'ordinario. Ora, il cardinale, per fini a me ignoti, si ostinava a contrariarmi. 2 anni e mezzo erano già decorsi da che io soccombeva al suo inqualificabile procedere. Il giorno 15 maggio era spuntato, giorno nefasto di reazione che noi napoletani ricorderemo sempre con rossore. Fatta anticipare di 2 ore la recita dell'ufficio divino, la badessa ci diè licenza di salire sul belvedere onde mirare il re che doveva recarsi alla vicina chiesa di San Lorenzo, essendo quello il mattino dell'apertura del Parlamento. Io avevo veduto nel mese di gennaio questo principe passare a cavallo in mezzo al popolo. L'avevo veduto precisamente sotto il campanile di San Gregorio sciogliersi la coccarda tricolore che portava al petto e cacciarsela in tasca, quindi avviarsi nel quartiere del mercato, a fine di non esporre agli occhi dei popolani di cui formicola quel quartiere l'emblema della giurata libertà. Questo atto, sfuggito all'osservazione dei più, mi era sembrato di tristo auspicio. Alle 10 venne ansante il portinaio a dirci che, essendo tutta serragliata la via Toledo, dovevamo pur noi chiudere prestamente il monastero. Mi portai in un batter d'occhio al solito finestrino di vedetta. La Guardia Nazionale, che stava di picchetto a San Lorenzo, andava e veniva affannosa. Un primo colpo di cannone mi avvertì essere l'affare serio, più di quello che aveva immaginato. L'umano, il fedele, il costituzionale principe regalava le bombe alla sua capitale e le palle di moschetto agli amati sudditi. Parecchi giovani signori, affratellati coi popolani, alzarono 2 grosse barricate, una sotto il nostro campanile, l'altra all'angolo del vicolo 5 Santi. Continuava intanto sempre più vivo il tono dei cannoni, il tuono dei cannoni e lo scoppiettare dei moschetti. Più ore scorsero e il cannone non cessava di vomitar palle e mitraglia sulla misera Napoli. Poco appresso cominciava a farsi sentire qualche grido di «Viva il re!». Le monache ne fecero galleria, ne tripudiarono battendo le mani. Io tremavo. Non c'era più da dubitare. La sorte pendeva a favore del dispotismo. La Guardia Nazionale cercava scampo, fuggendo travestita. Il tamburo batteva ad ogni intorno la generale. Era tutto in trambusto. Volai tosto alla mia stanza e presi alla rinfusa le mie memorie, le gettai alle fiamme unitamente ad altre carte. Temevo il caso di una qualche denunzia che avesse potuto compromettere me e qualche mio parente. In quel mentre la cavalleria si avvicinava a passo di carica. Quegli stessi popolani che la mattina avevano aiutato i liberali a costruire le barricate, gridando le 1000 volte «Viva la nazione!», quei dessi le disfacevano la sera, innanzi alla cavalleria, plaudendo al re spergiuro. Il grandioso palazzo Gravina, che ardeva, proiettava in fino a noi, a luce sinistra dell'incendio, appiccato dall'orda mercenaria degli svizzeri. L'indomani una bianca bandiera sventolava sulle fumanti rovine dell'edificio in segno di giubilo e di conquista. Si sa che la città fu posta in stato d'assedio, ordinò pertanto la polizia che tutti mettessero un segno bianco ad ogni balcone o finestra. Le berghinelle del mercato e di un altro quartiere vicino, noto per disonesta reputazione, si recarono vestite di bianco, inghirlandate, avvinazzate alla piazza della Reggia, sì per congratularsi col despota della riportata vittoria, sì per fare baccano coi soldati che incontravano per la via. Intanto il mio stato non era immune da ogni pericolo. Tutto lasciava presagire che sarei stata pure io compresa nel libro nero della polizia. Delatori e testimoni non mancavano fra i tanti membri della comunità. In questo frangente volle Iddio tendermi la mano. Un cappuccino, d'aspetto venerando, con lunga e canuta barba, mi fece scendere nel parlatorio. Proveniente da Roma, si diceva incaricato da sua beatitudine di consegnarvi un breve d'uscita e in pari tempo di esortarmi alla pazienza, essendo stata reputata equivoca dalla Santa Sede la mia condizione monastica. Questo breve non era precisamente quale io me lo aspettava. La Santa Sede posponeva alle convenienze gran parte della giustizia. per non recare amarezza all'arcivescovo di Napoli, il quale aveva sempre con energia resistito alle mie istanze, adducendo lo specioso pretesto che mia madre riceveva in casa persone sospette d'ateismo e di liberalismo. Il breve teneva il piede, come suol dirsi, in due staffe. Contentava da una parte me, accordandomi l'uscita di San Gregorio, e appagava dall'altra parte il cardinale Riario, Sforza, ordinando che io fossi passata non nella casa materna, ma in un conservatorio di mio proprio gradimento. Ben inteso, però, che io potrei assentarmene ogni giorno, purché vi facessi ritorno la sera. Del resto, formale essendo quella volta l'ordine, era preclusa al cardinale la via di intervenire col suo veto. Sebbene appagata per metà, vidi non di meno che recalcitrarvi sarebbe stata follia. A conseguire la somma della libertà faceva d'uopo adoperarsi attivamente, né io ignorava il proverbio che per dimenar la pasta il pan s'affina. Era fuor di ogni dubbio che la faccia degli affari mutava. Io cominciavo a scoprir terra. Quel breve del Papa giungeva a proposito. Ora, facendo mio pro del fatto che un messo ad hoc era stato mandato dal pontefice per parlare con me, senza l'intermediario di superiore autorità, diedi abilmente a credere che io fossi in Roma, aiutata da santi più di quello che di fatti non era. Per tale mezzo ottenni di render vane le insidiose intenzioni di quanti si disponevano a suscitarmi novelli intoppi. Tratta copia autentica del rescritto ne feci parte al cardinale. Egli si consigliò con diversi canonici per vedere se poteva impedire ancora l'usata mia con qualche sofisma, ma l'ordine era esplicito, né ammetteva cavillo di sorta. Qualche giorno appresso venne a trovarmi. Non l'ho veduto mai portare sì alteramente la testa sul busto, indizio presso i gesuiti di disfatto. Dopo essersi lagnato a lungo della violenta guerra che gli faceva mia madre, mi disse: «Dunque, volete uscire ad ogni costo?» «Voglio uscire», risposi, «e uscirò!» «In tal caso», riprese, «vi piglierete pensiero di cercarvi da voi stessa un qualche conservatorio?» «Ah, non ve ne incaricate, imminenza», dissi io troncandogli in bocca la parola, «quest'affare spetta esclusivamente a me». E davvero, la scelta di un conservatorio mi era a prima vista sembrato un affare non degno di grande considerazione, ma chi avrebbe immaginato che sul momento di porre il piede fuori del mio purgatorio una fune d'inciampo nuova e inaspettata stava per essermi tesa dall'insottanata camorra? Dalle monache dei differenti conservatori mi toccò subire le più sconce ed umilianti ripulse. Non si tosto ricevuta la mia domanda, ciascheduno di quei ricettacoli mandava per informazioni dove, a San Gregorio Armeno, Pilato ricorreva a Caifa. Si potrebbe di grazia conoscere il vero motivo per cui suora Enrichetta desidera passare dal vostro convento ad un conservatorio? Figliuola mia, chi lo sa? Se ne dicono tante e tante sul conto suo, ma le male lingue son per tutto. «Sì, sì, dicono che lei è un'anima dannata. Oibò, tutt'altro, è piena di rare qualità, buona, docile, generosa del suo eccellente amica, eccetera, eccetera. Non di meno, c'è chi dice delle cose gravi sul conto suo, ma, ripeto, le male lingue son per tutto. Per esempio, che cosa si dice? Oh, beh, dicono che la si procuri e legga libri proibiti, che sottomano somministri armi velenose alle gazzette dei malvagi, che alle volte lasci il coro per far poesie, che covi il progetto di una riforma ecclesiastica, la quale avrebbe per primo effetto l'abolizione degli ordini monastici, che... E qui la buona donna mi affibbiava una filastrocca di formidabili capi d'accusa, poi... suo iure mi condannava all'ultimo supplizio, poi m'assettava alla gola il nodo scorsoio, ma vedendomi penzolare dalla corda fra terra e cielo esclamava in tono caritatevole: «E non di meno è tanto buona!» Alla vista di un ritratto così spaventevole, chi avrebbe accolto in sua casa l'originale? Mi rivolsi perfino ai ritiri di infima classe e trovai tutte le porte chiuse. Avvedutami della nuova macchinazione, sgomenta della piega che prendeva la faccenda, scrissi al cardinale una lettera breve ma succosa, onde annunziargli che se non avesse egli sufficiente forza da mandare ad effetto gli ordini del pontefice, io avrei reclamato a Roma con altrettanta energia. Il cardinale si portò immantinente al conservatorio di Costantinopoli e diede ordine che senza indugio me ne fossero aperte le porte. E perché quelle suore adducevano per scusa di non avere nessuna stanza disponibile, sotterfugi, disse egli, non importa, qualcheduna di voi cederà la sua stanza alla Caracciolo. Molte camere si trovarono all'istante a mia disposizione, se non che, prima di esservi ammessa, dovetti sborsare ducati 40 di entratura. Allora Maria Giuseppa, lieta pur essa di lasciare quel luogo, fece meco gli apparecchi della partenza. Le monache di San Gregorio, non sapendo come altrimenti mostrarmi il loro dispetto, tanto dissero e tanto fecero che per mezzo del cardinale mi proibirono di portar meco l'argenteria e gli altri oggetti di valore che, secondo l'usanza di quella comunità, ereditati avevo dalle mie zie alla loro morte. La mattina del 28 gennaio 1849, due carrozze si fermarono fuori della porteria. In una stava mia madre, nell'altra il vicario. Alquanto commossa, mi sentii nell'atto di stringere la destra le poche monache che mi compativano. Erano quasi tutte vecchie e di ingenua pietà, e quando chiesi loro perdono delle molestie che poteva aver loro cagionate involontariamente, si commossero fino alle lacrime. Volli pur prendere commiato da quelle che mi avevano mosso guerra, ma non mi riuscì di vederle perché si erano nascoste. Scesi di poi in chiesa, piegai riverente il ginocchio davanti all'altar maggiore ed ivi, sollevato lo spirito alla divina provvidenza, le resi grazie dal profondo del cuore. Dopo 9 anni di angosce crudeli, io rivarcavo al fine quella soglia che avevo creduto non dover più oltrepassare. «Su via!» disse un po' impazientita mia madre. «Quanto ti sei fatta aspettare?» «Così!» disse a me, che per suo volere aveva aspettato 9 anni. Ah, le carrozze si mossero. A pochi passi della porteria mi volsi a rimirare le alte e nude mura del monastero, e il campanile, la gradinata e i pilastri del tempio. La cancellata mi richiamò la memoria del giorno in cui quegli striduli ferri mi avevano separata dai più cari oggetti, e mesta mormorai fra me stessa le celebri terzine. E come quei che con lena affannata, uscito fuori del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. 19. Conservatorio di Costantinopoli. Le suore del nuovo monastero aspettavano la comitiva alla porta. Terminate le cerimonie al vicario e partita mia madre, mi fecero salire alla stanza da pranzo della badessa, non avendo un refettorio comune. Ivi sedetti a pranzo con la superiora e con 3 altre monache, dopodiché venni condotta al secondo piano, nella stanza a me assegnata presso la chiesa. La città di Napoli, travagliata nel 1526 da fierissima pestilenza, che la disertò di 70.000 anime, votava alla Madre di Dio una piccola cappella. Quando poi, nel 1575, rinnovellavasi il morbo per tutta l'Italia, senza che penetrasse tra noi, grato il comune cambiava la modesta cappella in un tempio, cui più tardi, nel 1603, si aggiunse il conservatorio. Nobile, vasto e comodo fabbricato, posto in uno dei più animati quartieri della città. Poche abitatrici io vi trovai, 14 oblate, una ventina di educande e 4 converse. Le oblate vestono l'abito dell'Immacolata Concezione e le educande, oltre ai lavori donneschi, si ammaestrano un pochino anche nelle lettere. Da lunghissimo tempo disavvezza alle grandi folle, al flusso e riflusso della piazza, a quel clamoroso favellio, a quell'assordante frastuono di ruote, tutto caratteristico di Napoli, credetti di primo tratto di essere, per non so quale prodigio, risalita dal regno delle ombre al mondo dei vivi. Schiarita mi sentì la vista, dilatati i polmoni, rasserenato l'animo. Non vedeva più a me davanti quell'enorme muraglia della clausura che per 9 anni mi aveva compresso il petto e angustiata la respirazione con le strette dell'incubo. Sentiva passare gente, carrozze, venditori, truppa. Alle finestre io non mi potevo affacciare perché troppo erano alte. Eppure, trovandomi così in una delle più belle vie della città, mi potevo immaginare di essere piuttosto alloggiata in casa particolare che in monastero. Tutto insomma mi parve nuovo, tutto singolare e curioso. L'aria, il suono, la luce, il movimento e perfino le sembianze delle mie simili. La mia stessa persona mi parve una pianta esotica, venuta da lontanissimo paese. Mi parve, non saprei più dir quale, ma un oggetto di curiosità. Ne temerò di passare per esagerata se per dipingere quella fase singolare del mio stato interiore confesserò di aver più volte interrogato lo specchio intorno alla mia personale identità. Il breve mi permetteva di uscire ogni mattina, ma il cardinale, che scherzevolmente era stato soprannominato il mio Hudson Lowe, mi proibì di passeggiare a piedi. Veniva dunque mia madre a prendermi in carrozza, mi riteneva a pranzo e al tramonto del sole mi riconduceva. Ho detto che tutto mi parve nuovo, perché non aggiungerei che tutto mi parve più umano? L'aria di San Gregorio spirava il tanfo delle stanze mortuarie, atmosfera carica di miasmi mefitici che da ogni parte aspirata infiltrava nell'organismo più o meno acrimonia, asprezza e cattiveria. Ritornata nell'aria libera, sana, ventilata, nell'affettuoso consorzio dei parenti, nella soave comunione dei sensi, delle speranze, delle commozioni patrie, restituita in una parola all'amplesso dell'umanità, ne provai subitamente i benefici influssi. Poco a poco la mia ragione si sgombrò dalla negra caligine che l'offuscava, il cuore rincantucciato negli ultimi ripostigli, inciprignito in sterili lotte, inselvatichito nell'isolamento, tornò bel bello ad inebriarsi nei concerti di quell'armonia sovrumana che chiamasi amor del prossimo. Debbo manifestarlo? Allora soltanto cominciai a travedere in che veramente consistesse la religione cristiana. La fede, che sino a quel punto aveva con impero dispotico agito sulla mia volontà, quella fede che io aveva veduta deturpata in pratiche di pietà imbecille, vituperata nell'odio per tutto quello che non portasse in sé l'impronta ieratica, quella fede, dico, la sentii allora quasi rifluire in me per gagliardi zampilli nel libero esercizio delle facoltà dell'anima, nell'operosità del pensiero e del sentimento, nella partecipazione alle miserie altrui. Che più? Le note che nei momenti della consacrazione e dell'elevazione scioglieva l'organo mi inondarono di ineffabile dolcezza, mi commossero, mi ingentilirono. Né uscii mai dalla messa meglio disposta alla carità di quanto lo fui quando mi venne fatto di respirare le aure stesse onde il cristianesimo trae vita e vigore. Migliore ancora sarebbe stata la mia nuova condizione senza due cose che mi recavano molestia: la curiosità pubblica, che fermata dal mio abito di monaca mi andava esaminando come un animale di serraglio, e la combinazione spiacevole che nel detto conservatorio non faceva da portinaia una monaca consta, ma invece una conversa feroce e poco meno che antropofaga. Costei sì che potuto avrebbe realmente figurare in un serraglio per le sue forme, partecipanti ad un tempo dell'animale umano e dell'orso di Siberia. Fronte non più larga di 2 dita, sopracciglia eternamente increspate, occhi piccini e iniettati di sangue, naso schiacciato, bocca armata di formidabili zanne che spuntavano fuori dalle labbra e voce ringhiosa. Quando guardava, minacciava, quando parlava, mordeva. La porta si chiudeva al tramontare. 5 minuti di ritardo la mettevano in gran furore, digrignava i denti, stralunava gli occhi e borbottava queste o simili parole: «Malannaggio al cardinale per il regalo fatto al conservatorio, una monaca che tutti i giorni vuole uscire». Verso la fine del seguente ottobre Il cardinale mandò alla badessa l'ordine di proibirmi assolutamente l'uscita. Ecco dunque ricaduta nella primiera reclusione, nuovi tormenti e nuovi tormentati. In risposta ad una mia rimostranza venne il cardinale a trovarmi e disse non essere regolare che una monaca attraversasse il corso in carrozza, né d'altronde convenevole che le oblate del conservatorio restassero scandalizzate dalle mie uscite. Quale, soggiunse, sarebbe la sorte della santissima nostra religione e in particolare degli ordini monastici, se le monache tutte sentissero come voi il bisogno della passeggiata all'aria aperta. Irritata da sì fatto incrudelimento e prendendomi ormai vergogna di soggiacere ad un prete orgoglioso, arbitro della mia libertà, mi confermai nel proposito di fare tutto il possibile, onde levarmi dal collo l'ignobile giogo. A tale uopo mi venne in mente di ottenere, per mezzo di eminenti amici, un diploma di canonichessa. Ottenuto che avessi per avventura questo vantaggio preliminare, Dio e le circostanze mi avrebbero aiutata al completo riacquisto dell'affrancamento. L'ordine cavalleresco e religioso delle canonichesse di Baviera, conforme a quello dei commendatori di Malta, vieta alle donne che vi appartengono il matrimonio, ma permette che vivano libere in seno alle proprie famiglie. Per favore del principe Dendier, molto potente presso la corte di Monaco, ne ottenni in breve tempo la nomina e le insegne, nella speranza poi di vedermi liberata per tal modo da qualunque fastidio, il generale Saluzzi, mio magnanimo benefattore, ne pagò i diritti in ducati 240. Un'apprensione mi restava. Mi avrebbe la corte di Napoli accordato il regio exequatur? Per buona sorte, il ministro Fortunato firmò l'atto di consenso, senza punto sospettare che io fossi monaca professa. Ottenutolo così di leggeri, feci un altro passo innanzi. Intavolai una pratica a Roma, peraltro permesso che mi autorizzasse a passare dall'ordine di San Benedetto a quello di Sant'Anna delle canonichesse di Baviera. Ma qui incappava di bel nuovo negli agguati dei preti. Il cardinale rispose facetamente che io poteva portare le insegne bavaresi sull'abito da monaca benedettina.